Salve, popolo di Utopia. In questa rubrica si è spesso parlato di processo di individuazione, di salto quantico, di metamorfosi, di complessità. Strumenti, concetti, ipotesi, idee che possono accompagnarci per tentare di riorganizzare una resistenza delle menti e delle coscienze, per non lasciarci inghiottire sempre di più in un mondo grigio e vago che vorrebbe ridurci definitivamente in naufraghi schiavi di un'apparente realtà inanimata e insignificante. Ma quante entità oscure ancora si aggirano nello zoo mondo, incapaci di operare un cambiamento di energia e di accedere a livelli superiori, non dico di coscienza, ma almeno di consapevolezza. Nello zoo del Bronx a New York, nel padiglione dei primati, su un cartellone affisso davanti ad una gabbia si può leggere: il primate più pericoloso della Terra. All'interno della gabbia, uno specchio. Riflessi in questo specchio, chissà, potremmo forse riconoscere gli autori degli incresciosi atti di vandalismo perpetrati qualche settimana fa ai danni del centro sociale Jan Assen e della nostra radio asilo. Spettri, esseri sragionevoli che invece di darsi la pena di formulare l'esigenza di un discorso che le condurrebbe a meglio comprendersi e ad uscire dall'ombra, preferiscono affidarsi ad affermazioni dogmatiche, segni di una violenza che è l'opposto della libertà, il non voluto, il non scelto. Ma la violenza non è un assoluto, non è che un momento, incomprensibile, irriducibile, scandaloso, ma pur sempre il punto di partenza dell'educazione e della cultura, perché è alla ricerca di un senso. Bob Dylan, la risposta. Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo chiamino uomo? E quanti mari deve varcare la bianca colomba prima di posarsi sulla spiaggia? E quante volte devono fischiare le palle di cannone prima di tacere per sempre? La risposta, amico mio, la sta portando il vento. Quante volte un uomo deve guardare in alto prima di riuscire a vedere il cielo? E quante orecchie deve avere un uomo prima di accorgersi del pianto del mondo? E quante volte dovrà morire un uomo prima di sapere che troppa gente è morta? La risposta, amico mio, la sta portando il vento. Quanti anni può resistere una montagna prima di dissolversi nel mare? E quanti anni dovrà vivere la gente prima di essere veramente libera? E quante volte un uomo può chiudere gli occhi per fingere di non vedere? La risposta, amico mio, la sta portando il vento. E proseguendo, anche se in una maniera che oscilla un po' tra il conciliante e l'accondiscendente, vorrei comunque sottolineare, parafrasando Nietzsche, che se si indaga sul passato di un colpevole, si ritroverebbero coinvolti nella colpa i genitori, gli educatori, la società in generale, e molto spesso gli stessi giudici. Cioè, che le azioni degli uomini reali non nascono dal vuoto, ma sorgono da interessi concreti e conflitti di interesse con caratteristiche specifiche, determinate dal contesto sociopolitico che le alimenta, nel quale, nel bene e nel male, siamo tutti ancora una volta coinvolti, perché siamo sempre inseparabili dall'oggetto studiato. Ma ciò non significa rinunciare all'esercizio della responsabilità, che anzi è necessaria per cercare di disegnare un legame sociale in cui ciascuno sia coprotagonista della libertà altrui. E qui ritorniamo al nostro discorso iniziale, che potrebbe essere sintetizzato come l'urgenza di un cambiamento di paradigma, la necessità di cominciare ad imparare a pensare in un modo nuovo, essere pronti a finirla con gli stereotipi, a lanciarsi nell'improvvisazione, nella creazione di relazioni non meccaniche, a rinunciare a monologhi anemici, alle atmosfere di non autenticità, all'universalità dei luoghi comuni, alle piacevoli valli di autocompiacimento. E allora, metamorfosandoci in infinitesimali atomi di comprensione, ricordiamo a noi stessi che chi si compiace nell'ingiuria e nell'insulto non esprime che parole inarticolate, inaudibili e incomprensibili. E nell'attesa sempre di qualcuno che interrompa i miei soliloqui, vi do appuntamento alle prossime utopie a venire.